Attenzione, Milan 10. Colla 10, break. Attenzione, cercare 10. C'è qualcosa? Avanti. Buonasera. Alessio, ciao, buonasera. Ah, ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che c'è? Come mi senti? Fa passaggio? 1, 2, 3, 4. Segnalo sesto, radio 5. Guarda, si è migliorato un po', insomma. Prova. Alto 6-8. Vabbè, dai, sto guardando le partite. Il doppio russo non c'è. No, non l'ho sentito ancora. Ma tu sei Walter? Sì. Ciao Walter. Mi hai sentito? Scusando l'antenna della macchina. Perché la manovra me l'ha presa anche nel fulmine l'altro giorno. Me l'ha crepata la manovra fumo, mi ha fatto uno spacco di 20 cm. Mi ha acceso il fulmine in casa e mi ha crepato due televisori e il termico di casa. Che ha fumato. E tu vedi i televisori, sembrava, come si chiama, un fumoga, non te ne dico nulla. C'è anche a tiro muscolo che ha fatto tanto meglio. Vabbè, ma non rimborsa bene come così. No, non rimborsa, se mi ha detto cazzo, l'ha pescato in pieno, l'antenna del televisore e il codice l'ha pescato, la mantova. E poi anche nel palazzo è sceso, capito? Cioè, è passato dalla parte di giù. Dove c'è la fanculo, già ben capito. Che noi al pian terreno abbiamo la cabina. Fammi che non si curiava di tutto il mondo a casa, letto, cucina, tutta la cucina, tutto l'impianto elettrico. A fammi ci ha fatto una paura. No, qua l'impianto elettrico niente, meno male. Solo tutti e due i televisori, ha fatto un tocco il televisore, solo quello, però io non ho sentito né suono né. Io ho visto fulmine, capito? Perché di solito quando cade il fulmine nel palazzo, cazzo fa un fuoco che rimane sordo, a parte che si illumina tutta casa. A me così non è successo. In pratica deve essere l'edificio l'ha preso, hai capito? Mi ha pizzicato la manovra all'antenna della televisione, dell'antenna TV è entrato mi ha bruciato prima un televisore e poi l'altro, uno era acceso, l'altro era in stand-by. E poi ho visto che ha preso fuoco anche il coso, il termico, ha fatto fumo il termico, ha fatto un fumo qua a casa. E poi ho visto che ha fulminato anche la lampadina dell'ascensore, capito? Cazzo, non ho mai avuto bruciato la picchiriola. Ciao Luca, ma nel palazzo c'ho a te? Nel palazzo lo vedo io, poi nel palazzo vicino, non so che cosa abbia combinato, è venuto la signora, mi ha detto che a lei gli ha abbassato il termico di casa sua, in più la lavatrice non funzionava più, e il televisore eccetera eccetera, quindi hai capito, ha fatto un bel po' di danno. Se ti vai a lamentare, dico, non mi sento che faccio che c'è l'antenna, non mi vieni da il mondo. Volevo andare un attimo su, io ritorno dopo. Io sto usando l'ICOM 7007, c'ha 50 watt, però non parlo quasi di positivi a pazienza. L'antenna io ce l'ho qua, sto usando la cubica per 10 minuti, che è puntata verso la Africa. Va bene, avanti Luca. Ciao Walter, io sono qua, sto maneggiando un paio di tablet di un amico. E sono qua, dai. Avanti buon po'. Ecco, vi sento tutti a voi. Poi arrivare a San Giovanni con la magnetica attaccata alla finestra. La mantova l'ho controllata stamattina. Cazzo, la plastica della mantova tuba m'ha filato, cazzo. 20 cm di filatura ci sono. Me l'ha aperto di 4-5 mm. Adesso quando migliora il tempo salgo su e c'è tutto in terra. Sì, buon pomeriggio, che Santa la giamba ormai, ai suoi anni. Certo, per cambiare, se non si vede nuovo. Non si vede nuovo e anche la base è messa bene, hai capito? E quindi, adesso vediamo un po'. Riesco a buscarmi una base di Mantova 5, ci metto la base della Mantova 5 e recupero lo stilo. Capito? Poi con i radiali già non è un problema, già li metto dei radiali di alluminio, 2,75 m, ne metto 4 o 5, quello che guarda la bricco e poi ce ne più il sorrento. Poi fai così, vedi un po'. Stavo cercando su internet, ma ce l'aveva una, un tipo era già venduta, certo, rimasto. Quindi figurati. Vabbè. Solo che la segno di inclusione non l'hanno ancora pagato e quindi i suoi assistenti hanno fatto casino all'inizio e non si capisce un cazzo. Se pagano questo mese, se non pagano, boh. È un casino, sì. Non è poco niente cazzata, sta se ne è vecchio e da queste parti. Parecchia gente non ha avuto il coso, l'ha credito, capito? Questi sono cuocomani. E infatti già ho detto così che sono dei cuocomani quelli dell'inizio, non capiscono più un cazzo all'agosto. E due atleti saranno bloccati quelli insieme ai colleghi, intanto ne so io. E hanno fatto capusoio, accetti hanno caricato, accetti non hanno caricato niente. Tutto fermo, tutto bloccato, non si capisce se devono fare i controlli, se non devono fare i controlli. Non sono aggiornato su queste cose. Casino c'è. Ma lo sono loro, capito? C'è gente che lo prende e non ha bisogno. Lo so, c'è gente che lo prende che non ha bisogno. A quelli dovevano toglierlo, no? A chi ne ha bisogno. Io purtroppo non posso lavorare, hanno anche scritto nel foglio dell'aggravamento che ho fatto, quindi figurati tu, in abbia al lavoro proprio del tutto, capito? 67% mi hanno dato e fino ad arrivare a 67 anni, dopo 67 anni con 67% me ne hanno dato automatico la pensione. Avendo a 67 anni, ne ho 61 a novembre. Sì, già sei giovane, ragazzi. C'ho anche la picchia della grossa, e vabbè. Tira la dita. Vabbè. Cosa vogliamo fare? Che certo quando mi ammazzo. Tutti i televisori, cazzo, incendiati, cazzo. Sono venuto per comprare un nuovo, 138 euro, uno ho visto la Rossi, l'altro 89 euro. Che marca sono? Io sono di buona marca, fortunatamente. La Rossi che c'è qui è quello di Via Verona, li ho visti. Uno è un 42, quello 138 euro. L'altro è un, se non mi ricordo male, è un 24, è 89 euro. Ma li ha controllato le schede, non si può sistemare? Ah, nella strada del mini, di quello di Simona non te ne dico nulla, c'è un buco, cazzo, sembra che ci hai passato il saldatore. Il mio, la sera, penso che si possa tesserare, adesso l'ho vista 36 euro su eBay, quando se paga lo scatto l'inizio, me la ordino e così me la piazza. Risparmiamo un televisore, perché quello che ho io è un LG 32, nuovo. Ma LG, cioè, 32? Sì, a 32. Vabbè, vedi, quello lì si può buttare, si può rimediare lo schermo, il pannello LCD di LED. Sai che quanto costano le schede? No, l'altro è un Great, quello lì, quello che non si può riparare. Ci ha bruciato anche le come si chiama, le interne, capito? A parte la telealimentazione ci ha bruciato anche l'etere. La prossima volta che sembrava un albero di Natale, ha cominciato a cambiare colori, e non sai niente come ha fatto quando sono un bel luminoso, capito? Il mio si può salvare il 32, ma il 42 che è la camera da letto, quello proprio no. È impossibile ripararlo quello. L'unica cosa che ho recuperato sono la tastiera, dove c'è l'attacco dell'antenna, e quella per i colori. Vabbè, quello del G, pannello del GD è buono. Io arrivavo un paio da 32, però non so se va bene il pannello. Sono uno più nuovo, c'è il pannello rosso. Se riuscivo a recuperarlo, la scuola un po'. Prima li recuperavo da mio cugino, che lui lavorava in un posto, capito? Non riusciva a recuperare, adesso non ci lavora più, hanno cambiato. Qualcuno l'ho salvato, eh? Meglio così, meglio così. Lo ricordate proprio, no, non si può salvare. Fosse stato solo la metà, fosse stato il centro, avrei preso solamente la scheda dell'alimentatore e basta. Tutto si era finito lì. Ma invece, proprio l'hanno, un po' di l'hanno ha fatto, cazzo, ha fatto un buco, cazzo, non vivere la casa, come se avessi passato le bucato con la salatrice, ha scelto la lamiera, figurati, mi ha fatto un buco tondo, sotto la spina dove era anche il televisore, ha fatto lo tampato dove si venendo, mi ha fatto il buco e in più gli ha mangiato le piste. Immagino, aspetta 2 secondi e do la mangiare a te. Infatti, pure, c'è problema.